Dica, dica. Allora? Per me, la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca! Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Hai capito? Merda! Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock. Rock FM. Dobbiamo ammetterlo, la domanda di quest'oggi era abbastanza puntigliosa, abbastanza difficile, l'origine del termine heavy metal. Abbiamo detto che per quanto riguarda la prima canzone con il termine heavy metal ci si riferisce agli Steppenwolf di Born to be Wild, ma in realtà si sa che 4 anni prima venne già pubblicata la parola, il termine heavy metal, forse come ipotizzato dalla soluzione A in una rivista di motociclette dove veniva definito un motore dell'Harley Davidson come un heavy metal motor. Se avete lei è un maestro, se avete, sì, se avete scelto questa opzione, ahimè, no, avete sbagliato. E allora forse in un'intervista lasciata da Ozzy Osbourne 4 anni prima di entrare nei Black Sabbath, dove delirò sul fatto che alcuni brani da lui composti erano ispirati da una terribile emicrania, ovvero da una heavy metal headache. Sì, sì, è quasi plausibile, ma ancora non è quella giusta. E allora la risposta giusta era la K. È stato Burroughs, in un suo racconto del 1962, a introdurre questo personaggio chiamato Ryan Willy come The Heavy Metal Kid, il ragazzo di metallo pesante. Tra l'altro segnaliamo anche che nel successivo romanzo del 64, Nova Express, heavy metal appare invece come metafora delle sostanze stupefacenti. Lei apprezzerà, perché andrò a citare, con i loro disagi e orgasmi di droga e la loro assessuata forma vitale parassitaria, la gente di metallo pesante di Urano, avvolta in fantastiche foschie blu di banconote vaporizzate, era fatto sicuro. Ci piacerebbe pertanto conoscere il suo spacciatore. Ciao spacciatore di Burroughs. Complimenti e tanti complimenti. Yeah, gotta go make it happen. nato per essere sfrenato. Gli Steppenwolf, 8 e 35 minuti primi, mercoledì 7 novembre. Questa è Rock FM, questa è Pane, Burro e Rock and Roll. Puntata 124, delirante puntata 124, che punta dritta verso le 9 del mattino. Ancora parecchie stupidate da combinare insieme. Abbiamo da affrontare la tematica: quanto è difficile essere un vero rocker quando intorno a te il mondo non è rock? Abbiamo forse un collegamento, forse, perché non si sa mai, con il Giappone. Sapete, collegare il Giappone a Milano non è poi così semplice, anche se siamo nel 2007, ma vi ricordo che le tecnologie a disposizione di Rock FM sono rock anche loro. Abbiamo i nostri opinionisti, Rogna e Frigo, le nostre cavie da esperimento, un nuovo corso al quale vi abbiamo invitato nel corso di quest'oggi, insomma. Tantissimi gli appuntamenti, un saluto anche a coloro che se li sono persi tutti e che si gusteranno anche solo l'ultima parte di trasmissione. Restate, ce ne sarà di robaccia da ascoltare. Un ringraziamento particolare a tutti gli amici, tanti, e ne siamo contenti, sia io che tutta la redazione della trasmissione, i tanti messaggi di ringraziamento per quel piccolo frammento che abbiamo programmato di Pasolini. Ci fa piacere che vi faccia piacere, e lavoreremo anche nelle prossime puntate per dare pane ai vostri denti da rocker. Intanto restate con noi, anche perché avreste qualche altro posto dove andare. No. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow with no particular place to go. Particular place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Cosa hai oggi? Insomma, è tutto il giorno che stai lì a bofonchiare. Maledetti umani, sempre più ingiusti. Questo è vero, ma cos'è successo ancora? È successo che su di noi continuano a testare quelle schifezze e su quelle scimmie pulciose nuovi farmaci fatti con la cannabis. Sai che spettacolo le scimmie sballate? Che roba, che schifo. La vogliamo anche noi la cannabis? Datecela, maledetti umani. faccio il musicista rock con la bocca. Cazzo, riesco a sbagliarla anche con la bocca. Messo male, eh? Blind Faith, Can't Find My Way Home. Amici radioascoltatori maschietti all'ascolto, tenetevi forte, perché se ho un filo di intuito radiofonico, l'amica che sto per presentarvi vi piacerà parecchio. All'alba delle 8 e 43 minuti primi del mattino andiamo a proporre un nuovo caso. Spesso e volentieri ho lanciato appelli a tutti coloro che vivono il loro essere rock in maniera difficile, non per colpa loro, ma per colpa del mondo che li circonda. Ecco, la nostra amica, forse anche perché fa un lavoro un po' particolare, è circondata da gente che fondamentalmente non la capisce. Diamo il benvenuto a Pane, Burro e Rock and Roll a Luana. Ciao cara! Ciao, buongiorno! Allora, dicevo, ti faccio una piccola presentazione, poi ci tuffiamo nel problema. Luana fa la hostess di yacht. Ma che figata è? Cioè, cosa fa? È un lavoro. È un lavoro come un altro, dici? Sì, no, insomma, proprio come un altro, no. Però, cioè, tu ti imbarchi su questo yacht gigantesco. Sì. Giusto? Abbastanza, piuttosto grosso, sì. Cioè, poteva esserci di meglio, tu dici? No, no, c'è anche di peggio. Di peggio. E te ne vai in giro con questi signori opulenti, sì, diciamolo, che possono permettersi il mercoledì 7 di novembre di andarsene in giro. No, il mercoledì in giro no, diciamo di solito andiamo in giro l'estate. Ah. L'inverno siamo fermi, ma comunque lavoriamo lo stesso sulla barca, perché... Oh Luana, dovesse andar male la carriera radiofonica, poi ci risentiamo, io un pensierino ce lo faccio. Volentieri, basta che porti un po' di musica. Esatto. Il problema è questo: la nostra hostess di yacht, Luana, ovviamente è circondata, secondo voi, da marinai metallari? No. No, assolutamente no. L'ambientino è un po' così. Che ambiente è, Luana? Facci capire. Ma senti, che devo dirti? Io, cioè, sono stata guardata come un astronauta, qualcosa di strano. Una strega? Allora, ma perché? Per come ti vesti? No, perché ascolto la musica. Ah. E infatti ho scoperto che praticamente si mormora a bordo che io ascolto la musica satanista. Ah, già sentita sta cosa! E però... che tengono l'aglio in tasca! No, per me, l'aglio, ti giuro, no. L'aglio. Senti, però, ma ascolta, ma mi ascolti black metal svedese? O no, un po' di tutto. Cioè, diamo degli esempi, capiamo dov'è il problema. Dove hai sbagliato a porti, capito, Luana? Magari è colpa nostra. Ma no, guarda, io ho provato anche a lasciare in giro tipo giornali di musica, ho detto magari così di nascosto, guarda, peggio, perché le copertine le hanno spaventate. No, resto però sempre dell'idea, in concreto, ma che tipo di giornali? Cioè, roba tranquilla. Musica rock. Ora non posso fare pubblicità, ma insomma, tanto sono sempre i soliti. Esatto. Non è che ce ne sono tanti. Però tu dici un Ozzy Osbourne in copertina. Li spaventa. Marilyn Manson, ma proprio tagliato le gambe. Quello un po' Luana anche tu, però, perdonami, passi da bimbo, iniziamo con qualcos'altro. No, ma quello non è il mio genere, era in copertina. Ma senti, però, io sono dell'idea che un filino di rock c'è per forza in tutti. Cioè, non ci hai mai provato con dei classici, non so, un Beatles? Ascoltano completamente un altro genere. Allora, nello specifico, che ti fanno sentire? Zucchero. Solo zucchero. C'è solo quel CD da 3 anni su quella barca. Zucchero. Posso chiederti quale CD di zucchero da 3 anni? Non lo so, perché l'ho rimosso. Riesci anche io non so neanche il titolo, guarda. Questa santa donna è 3 anni che ascolta un solo CD di zucchero e nemmeno riesce a ricordarsi il titolo. Brava Luana, così ci piaci. Senti, io non so che dirti, proprio tu non vedi speranza? No, è difficile. No. Io mi porto i miei CD, ogni tanto di nascosto li ascolto, ogni tanto metto, quando poi la mattina sono così a bordo che sistemo le cose e ascolto voi. Però non ci ascolti che sentano anche gli altri. Poco. Non è mai capitato. Potremmo organizzarci, però Luana, un giorno la facciamo contrattata, che sappiamo che in quei 10 minuti ascoltano anche loro e cerchiamo, non so, gli lanciamo dei messaggi senza far capire che sei tu. Secondo me. No, perché sennò mi volano in mare. Potremmo anche pensare adesso, lancio la redazione in ricerca, potremmo anche cercare qualcosa così che riguardi il mare, che magari capisci, li prendiamo con l'altro loro. Sì, non so. Si può provare. Possiamo lavorare sul mare. Insomma, Luana, la nostra yacht, yacht girl, no. Steward hostess. Buon lavoro per quest'oggi. Facci sapere come si mette la situazione. Intanto tieni duro. Oggi che CD ti sei portata dietro? C'ho Rob Zombie. Allora si però si muove da una, però marchi male anche tu, Luana, per favore. Lavoriamoci un po' su questa cosa, ok? Sì, va bene. Dai, intanto noi siamo in squadra con te. Ok, d'accordo. Ciao. Tu Spadino sei scemo? perché hai messo Night Boat to Cairo? Perché avevamo la ragazza che lavora sullo yacht. Guarda che sei scemo forte. I Madness, in levare, su! Ormai da parecchie settimane il collegamento Milano-Giappone, una rubrica che a noi piace tanto, fortemente voluta dalla direzione di Rock FM, ma diciamolo, una rubrica decisamente sfortunata. Sì, sì, come sempre ripetiamo, l'occhio sul mondo di pane, burro e rock and roll. Nei primi collegamenti è finita un po' in tragedia per questo misunderstanding dei brani che forse non piacevano. Poi ci si è messa di mezzo anche la natura, inquietante. Un filo, sì. Prima un terremoto, poi lo tsunami. Tra l'altro sono anche preoccupato perché dopo il terremoto Fujiyasu ce l'ha fatta. Chissà se DJ Ariel non porteranno un po' sfiga questi collegamenti. Può essere. Sento Spadino che già connette la linea da Milano fino a Tokyo. Pronto, c'è qualcuno? Pronto? Sì. Pronto. Siamo Ariel e Friccantoni di Rock FM. Buongiorno. Ma non è Cacchio Radio Tokyo. Cacchio Radio Tokyo. Sì, sì. Cacchio Radio Tokyo. Lei è negli studi di Cacchio Radio Tokyo? Studi Radio Tokyo. Cacchio Radio Tokyo. Cacchio. È un DJ? Scusa. No, DJ. Lei è un regista? No, regista. Un programmatore? No, programmatore no. È il direttore della radio, proprietario forse? No. Sto qua a fare pulizie. Lei pulisce? Ah, vetrillo, speakerphone, faccio pulizia. Dopo tsunami, tutta acqua, io asciuga vetri, speakerphone. Ah, quindi lei è un... grosso bordello. Lei pulisce. Io pulizia qua. Però sa l'italiano anche lei. Conosco l'italiano, da piccolo. Italiano. Scuole. Senta, noi siamo una radio di Milano, solitamente i DJ ci facevano sentire qualcosa, ma... No, DJ, no radio, no niente. grande bordello. Aia. Cosa possiamo fare? Ma le attrezzature ci sono? No, grosso casino qua. Tsunami portato via tutto. Se voglio cantare per te. Ma sì, grazie, gentile. No. Volentieri. Canzone tradizionale. Giappone. Oh, grazie mille. Che gentile. Le va di cantare davvero questa disgrazia. Orgoglio di canzone giapponese. Bene. Sì, grazie. Non canzone fa... Sì. Questo è... Lasciatemi cantare. Guardi che questa è una canzone italiana, eh. Ma no, italiana. Giapponese. No, guardi, è solo aspetti. Che non è una canzone giapponese. No, aspetti. Cosa sta facendo? No, questa è la spada solita. No, aspetti, parliamone. Pure con è caduta la linea, anche sta pure con l'inserviente delle pulizie. Sono estremi questi. Questo è giapponesi. Masochismo. Ah, sono tostissimi. Non ho parole. See me ride out of the sunset. ed è al grido di TNT, siamo dinamite, che vi abbandoniamo al vostro destino questo mercoledì 7 di novembre, ma vi lasceremo ovviamente in ottime mani, permettetemi, ecco, questa è la fine, sì, di ricordarvi gli appuntamenti del weekend. Questo sabato mi trovate all'Alcatraz di Milano in via Valtellina con il collega Max De Riu, che vi ricorda e vi ricordiamo insieme che potrete trovare la riduzione per l'ingresso giù in portineria Rock FM, via Locatelli 1 a Milano. Chiedete a Lillo, sarà contento di consegnare. Questa cosa mi diverte tantissimo. Insomma, se volete ci vediamo sabato all'Alcatraz. Per il resto è noia! Così la chiudevo citando. Che citazione orrenda che ho fatto. È andata anche la puntata 124, la troverete su internet. Burro e rock and roll. RadioRockFM.com. La tua colazione roll. Troverete i migliori 4 interventi su MySpace. /paneburrofm. Spargete la voce. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ed eccolo qui, pronto a tenervi compagnia fino al mezzodì, Marco Gravelli! Eccoci! Ciao Marco! Ciao! Che puntata oggi! Sì. Volevo dirti, hai sentito del nuovo provino, sì, per diventare musicisti rock con la bocca? Io so che tu vorresti diventare un musicista. No, io ho sentito i vostri di provini. Ma i nostri sono buttati lì solo. Molto buttati. Adesso ci alleniamo un attimo. Ok. Però ti chiedo a nome di tutta la redazione di farci un pensierino, di scegliere il tuo strumento e prima o poi di partecipare al nostro provino. Prima o poi. Un po' ti tocca. Vabbè. Devi solo scegliere che strumento fare. Solo lo strumento. Ne parleremo, ok? Va bene, va benissimo. Buona giornata. Grazie. Thank you.